Di Giovanni Minoli. Oh village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Ho la cattiva reputazione di chi segue una strada diversa dalla gente per bene. Non faccio torto a nessuno, ma tutti sparlano di me. Così canta Georges Brassens. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Ma siamo davvero quello che gli altri dicono di noi? Non, les braves, j'en aime pas que. Così sintetizza il ministro Poletti. La reputazione è una delle cose più fragili, più difficile da costruire, più facile da perdere. Beh, sentirsi messa in discussione la propria reputazione per i comportamenti totalmente inimmaginabili, beh, veramente fa star male. Io sto male per questo. Il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, ha ribadito come per Barack Obama Trump ha un impatto sulla reputazione del nostro paese. Poi Trump è stato eletto e anche lui si troverà a difendere la reputazione di un'intera nazione, mentre l'Unione Europea, come dice il ministro Gentiloni, si gioca la propria. La reputazione dell'Unione Europea è in gioco, perché non si può considerare italiana un'emergenza che sempre più chiaramente è un'emergenza europea. Scriveva Cicerone, trascurare ciò che il mondo pensa di noi non è solo arrogante, ma anche immorale. Delle volte però, ciò che gli altri pensano diventa la cosa più inebriante. Perché vengono a leggere 200.000 persone al giorno quello che scrivo? Perché? Perché capiscono che io ho una cosa che mi posso spendere, che la maggior parte di gente che fa comunicazione oggi non ha più. E cioè la mia reputazione! Sauf les aveugles, bien entendu. Buongiorno, l'abbiamo sentito. Allora, oggi parliamo di reputazione. Che cos'è la reputazione? Quanto è importante? Come si costruisce e come si protegge? Un tempo esistevano norme fisse, contavano il ceto sociale, il cognome, il rispetto della legge, delle tradizioni. Oggi non è più così. Una buona e solida reputazione è il frutto di un insieme di fattori ed è continuamente minacciata dalle tracce che lasciamo sui social network. La nostra immagine è spezzata in mille frammenti nei quali a volte non ci riconosciamo e che possono essere facilmente manipolabili. Gloria Origi, direttore di ricerca dell'École Normale des Supérieurs di Parigi, autrice del libro La reputazione, chi dice cosa di chi. Ecco, dottoressa Origi, lei è a New York e allora cominciamo dal nuovo presidente Trump, che sembrava avere una pessima reputazione e invece ha vinto. Quindi la reputazione non conta. La reputazione conta a seconda da chi la guarda. Vuol dire che il Trump aveva una pessima reputazione agli occhi di qualcuno e una meno pessima reputazione agli occhi di certo, dei suoi elettori, naturalmente. Questo è stato un nostro errore non accorgersi. Senta, quindi la Clinton non è riuscita a costruirsi una reputazione abbastanza affidabile allora? No, io penso che ogni reputazione, diciamo, soprattutto in politica, ha la sua storia particolare, però effettivamente la reputazione di Clinton è stata diciamo contagiata dalla sua appartenenza a un establishment, e questo voto è un voto anti-establishment, come ormai vediamo in molti altri paesi come la del Brexit, mondo. Insomma, una eccetera, tendenza, certo. Quindi non è soltanto il caso americano, no, molto anti-establishment. Però lei ha sollevato un punto interessante. Il ruolo, per esempio, delle inchieste dell'FBI sicuramente ha giocato sulla reputazione della Clinton in un momento cruciale. E ormai della campagna, certo. Per gli elettori questo è molto importante, diciamo, per gli elettori chi va giù e chi va su è un segnale che li fa reagire in modo estremamente immediato, insomma. Ecco, ma cosa vuol dire? La reputazione diventa una variabile politica importante. Ecco, ma cosa vuol dire oggi avere una buona reputazione? Vuol dire essere in grado di lasciare una traccia sociale. La reputazione in generale io la definisco come la traccia sociale che ogni nostro gesto, ogni nostra parola, ogni nostro scritto, anche quello che stiamo facendo io e lei in questo momento, lascia nel mondo sociale intorno a noi. Vuol dire nelle commenti degli altri, ma anche nelle loro parole, nei sistemi tecnosociali come una radio che ritrasmetterà le mie parole, certo, eccetera eccetera. Quindi crea una specie di nuvola che rappresenta più o meno un'immagine di noi, che controlliamo fino a un certo punto, è un po' nelle mani degli altri. Dottoressa Riggi, ma è più grave dire una cosa falsa o fare una cosa sbagliata rispetto alla reputazione? Questo dipende moltissimo in quale dominio, di quale si dominio opera. Lei parla. Diciamo che ci sono domini in cui la menzogna è estremamente grave, penso alla scienza per esempio, certo. E ci sono domini in cui l'azione è estremamente grave, per esempio il dominio delle celebrità, fare un fatto falso eccetera. Quindi una parte del libro è dedicata proprio a un'analisi settore per settore, ogni settore ha la sua regola, con regole diverse, diciamo, ricette particolari, alcune sono terribilmente, come sa bene lei, resistenti a qualsiasi prova, a qualsiasi attacco, altri invece sono estremamente, estremamente fragili. Ecco, senta, ma quindi in qualche modo si può dire che la reputazione è un gioco più di credibilità che non di onestà? È chiaramente un gioco di credibilità e moltissime reputazioni resistono all'informazione falsa. Guardi la reputazione dei politici. Certo. Ma che ruolo hanno i social network in questo gioco di chi dice cosa di chi? Gestire noi stessi, questa rappresentazione di noi, questo avatar di noi che possiamo in qualche modo lavorare, truccare, mettiamo le foto su Facebook un po' corrette, mettiamo gli amici migliori e togliamo quelli peggiori. Dall'altro lato questa ha reso la possibilità di manipolazione, la velocità di circolazione dell'immagine che noi abbiamo di noi, quindi della nostra reputazione, estremamente più rapida. Ecco, però, e questo ci ha fatto spesso perdere il controllo sulla, di ciò che viene detto di naturalmente, noi. Naturalmente, ma quindi la reputazione è molto più vulnerabile sul web. Perché è un sistema del quale noi non abbiamo ancora completamente compreso le regole. Molto più manipolabile, dall'altro lato è anche più gestibile da noi, nel senso non bisogna neanche essere paranoici. Parte, cioè, il web certo. ha dato un'enorme possibilità a ognuno di noi di avere una gestione della sua immagine, diciamo, pubblica, del suo ego sociale, che sarebbe stata impensabile cent'anni fa. Cent'anni fa la reputazione era data da chi era la tua mamma, chi era tuo papà, certo. dove eri nato, al limite che studi avevi fatto. Certo. Insomma, no? Quindi senta, dire, questo è anche un cambiamento in positivo. Cioè, un positivo, ecco, però anche un rischio di fragilità e di menzogna più forte, più articolato. Scoprire che c'è un ruolo, diciamo, che c'è un nuovo attore sociale, che è il nostro ego sociale, che prende il sopravvento sulle nostre azioni, prende il sopravvento su chi siamo veramente noi, è qualcosa che ci rende fragili ma anche forti insieme. Spesso le nostre azioni sono guidate più dal nostro bisogno di immagine sociale che dai nostri bisogni primari, senta, diciamo, di interessi, di sopravvivenza, eccetera. Ma reputation manager cos'è, una professione per il futuro allora? Oh, come no, ma anche forse al posto dello psicanalista lo mettiamo. Lo mettiamo al parco, sì, mi sembra una imparare buona. A gestire chi è il nostro avatar sociale. Senta, faccio un esempio aziendale. La Volkswagen, dopo lo scandalo emissioni truccate, sembrava spacciata, invece ha aumentato il fatturato. Allora, interessante. Cosa ha fatto? Regole di gestione della reputazione, di cui proprio mi occupo anche nel libro. Cosa ha fatto la Volkswagen? Ha cambiato discorso. Mai, quando qualcuno attacca la sua reputazione, Minoli, non gli rimandi mai indietro la palla dicendo non è vero. Cambi discorso. Dice, certo. Sì, ho fatto questa cosa di male, ma in compenso ho fatto questa cosa che è ottima. E la Volkswagen ha fatto così, ha detto, benissimo, siamo dei mentitori, ma in realtà siamo la più grande azienda che dà lavoro agli operai tedeschi, eccetera. Si è buttata su un altro, vediamo adesso cosa farà la Samsung. Ieri ho preso l'aereo per venire a New York e sono proibiti i telefonini Samsung sugli aerei in questo momento. Quindi per paura che esplodano. Reputazionale e anche economico. Enorme. Senta, ultimissima cosa, lei scrive che l'autenticità è l'incontro perfetto tra l'immagine che vorremmo dare di noi e il modo in cui siamo visti dagli altri. Ma è un incontro possibile? È un incontro che tutti sogniamo, è il trionfo. La reputazione è come noi vorremmo, non è solo come ci vedono gli altri, ma come noi pensiamo che gli altri ci vedono e come noi vorremmo che gli altri ci vedano. E dunque la Clinton, per esempio, non è riuscita forse a farsi vedere come... E ci vuole tanto nella vita, ci vogliono tanti compromessi, ogni tanto tante frustrazioni, a cercare di far passare il sogno che ognuno di noi ha di sé, che infatti, non è un sogno conformista piacere agli dottoressa... altri, ma di far piacere agli altri quello che a noi piace di noi stessi, ed è difficile. Senta, infatti, la Chiesa, che è sapiente, i santi li fa dopo molti, molti decenni. Esattamente. Dunque 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per gli sms. Mario, per esempio, io ti vedo magro, hai capito? Mi vedi magro. Ti vedo magro, la reputazione del magro, secondo me, stiamo costruendo. Mi pare difficile. Senti, abbiamo accennato la dottoressa alla Volkswagen. Ecco, una strategia attenta per distogliere l'attenzione sull'errore e focalizzarla sui punti di forza. Ha funzionato. Sì. I numeri mi sembra che siano dalla sua parte. Volkswagen in grande ripresa. Mm. Sì, dopo il Dieselgate. No? Beh, lì intanto c'era una cosa di partenza sul quale lavoravano. Stiamo sul caso Volkswagen, la qualità del prodotto, come era percepita, no? Comunque i consumatori Volkswagen vogliono la Volkswagen, non è che, che chiedono altro. A prescindere dal CO2. Quindi l'azienda tedesca ha lavorato su questo, sulla reputazione precedente e sulla limitazione del danno dell'evento, diciamo. L'hanno fatto molto bene. Non hanno ancora recuperato tutto. Beh, ma però, potevano morire. Però. Esatto, la magnitudo di quello che era successo poteva travolgerli completamente. Non è successo, chapeau, è un caso di scuola, cioè andrebbe studiato. Senti Pietrangelo, la professoressa Origi, abbiamo sentito, dice che la reputazione è un gioco di credibilità e la reputazione dei politici sono le più resistenti. Te l'aspettavi? No. Però mi ha molto colpito all'inizio ascoltare le parole del ministro Poletti e percepire proprio la sofferenza. Il dolore lui. Io credo che ci sia una sovrapposizione di piani e di percezioni esistenziali. Sono categorie a cui noi eravamo abituati, soprattutto in politica, ed è una parola ben precisa ed è chiara. Si chiama onore. Chi lo perde difficilmente lo ritrova. La reputazione adesso è una forma addolcita per spiegare ancora una volta quello che poi è il lascito quotidiano che ognuno dà nel proprio ruolo. In politica l'onore si accompagna a scelte ben precise, esistenziali, che poi determinano anche il progetto. Quindi un uomo disonorato non riesce in politica poi a costruire altro che la distruzione di sé e di chi è con lui. Solo in un caso, scusa, perché è interessante perché qua entriamo nei canoni del racconto. Solo in un caso l'uomo disonorato riesce a ripigliarsi, quando trasforma la sua vita in una completa tragedia, cioè quando per salvare se stesso deve alla fine sacrificare se stesso. Allora in quel momento terminale riacquista la credibilità. Quello che in Giappone si chiama Harakiri. Harakiri, esatto. Ci sono momenti in cui la nostra reputazione è particolarmente sotto i riflettori, ad esempio quando si cerca lavoro. E non sempre quello che mostriamo di noi è percepito dagli altri nel modo in cui speriamo, l'abbiamo detto fino adesso. Marcello Albergoni è un country manager di LinkedIn Italia, il social network che è impegnato per lo sviluppo dei contatti professionali. Ecco, dottor Albergoni, quanto è importante la reputazione online per la vita lavorativa? È molto importante. Anche se soltanto diciamo il 57% dei lavoratori ha questa percezione, il rovescio della medaglia è che invece i professionisti del settore, cioè i cosiddetti recruiters, guardano prima di tutto l'identità digitale delle persone, prima di contattarle si fanno un'idea molto chiara. E quindi la gente non lo sa, ma sono già stati analizzati in qualche modo. Ecco, ma per chi seleziona il personale sono più importanti le tracce lasciate online, quindi... oppure l'impressione che si trasmette di persona in percentualmente? Ha lo stesso valore, quindi c'è un primo screening di quello che c'è online, quindi del proprio profilo e di quello che abbiamo fatto nella nostra vita professionale, che è altrettanto importante rispetto all'impressione che si ha ad esempio durante un colloquio. Ecco, ma come si fa ad avere un'identità digitale corretta e coerente e farsi scoprire da chi ci sta cercando? Intanto bisogna averla, quindi mettersi come hanno fatto gli altri 9 milioni di iscritti su LinkedIn, e poi bisogna essere autentici, non usare paroloni o frasi fatte tipo sono un esperto. E avere una bella fotografia professionale aumenta ad esempio di 21 volte la possibilità di essere trovati. Essere ben fotografati? Sì, ma non mettere magari la foto in spiaggia, ma mettere la foto in ufficio in ordine. Ecco, ma dottor Albergoni, ma se per esempio dobbiamo appunto bandire le foto in vacanza, le opinioni personali, che cosa resta? Quello che abbiamo fatto, insomma? Bah, diciamo che poi dipende dal tipo di social network, no? Su LinkedIn è giusto avere un'identità professionale, perché è quello lo scopo, per farsi trovare. Ma come si fa a essere autentici mantenendo la propria specificità? Bisogna mettere quello che abbiamo fatto dal punto di vista professionale. Se ci sono anche degli interessi particolari che abbiamo, vanno messi. Magari dal punto di vista professionale posso omettere su LinkedIn dei comportamenti che magari possono essere sgradevoli a delle imprese, tipo cos'è che non va detto? Ma non so, mettere la fotografia, che so, col cocktail in spiaggia, piuttosto che mentre si fuma una sigaretta, magari non è tanto, come dire, meglio non fumare, insomma, per trovare lavoro è meglio non fumare. Ma io direi che in generale è meglio non fumare. Ah, va bene. Senta, voi avete stilato una classifica dei termini, un po' lo diceva prima, dei termini più abusati da evitare quando ci si presenta online. Mi fa qualche esempio? Adesso mi ha fatto l'esempio della sigaretta, eccetera, ma i termini, dico, non le foto, i termini da non usare. I termini sono, ad esempio, super inflazionati, sono responsabile, piuttosto che esperto. Perché sono termini che sono generici e non dicono nulla, quindi meglio invece scrivere di un'esperienza, no? Che Ho fatto questo e quello, sì, meglio. Esatto, sì. Senta, ma quante sono le persone dentro LinkedIn che stanno cercando lavoro attivamente? Sono meno del 30%. E le altre cosa cercano? Le altre sono connesse, perché è un mondo di informazione professionale, e magari sono disponibili a valutare un'opportunità professionale. Sono i cosiddetti candidati passivi, cioè quelli bravi che stanno bene dove stanno e magari sono attenti a un'offerta di lavoro che arriva da parte di un'azienda che li trova. Ecco, ma invece chi li cerca, quanti lo trovano? Qual è la percentuale di chi cerca lavoro che lo trova attraverso di voi? Allora, quelli che cercano sono appunto... attivamente sono questo 30%. Posso darle dei dati? No, ma dei dati non di quelli che lo cercano, di quanti lo trovano. Ad esempio, a Milano, abbiamo appena presentato dei dati a Milano e provincia, giusto per dare un'idea, negli ultimi 12 mesi hanno trovato lavoro 50.000 persone grazie ai servizi di LinkedIn. 50.000 persone? Sì, queste sono le persone che sono state trovate, sono state assunte dalle aziende grazie ai alle servizi vostre di LinkedIn. Senta, sì. Secondo la vostra ricerca, solo per i genitori italiani il primo lavoro è più importante della laurea. Perché lo pensano solo gli italiani? Gli altri cosa pensano? Gli altri, ad esempio, in Inghilterra dalla ricerca salta fuori che la cosa più importante è la patente del figlio. La prima professione non è così importante, mentre in Italia il contratto a tempo determinato è molto importante. Posto fisso. Lei è arrivato a LinkedIn nel 2011, prima cosa faceva? Prima ho lavorato nella consulenza e prima in un'altra azienda nel settore information technology, quindi ho un background di informatica. Però non era esperto. Non ero esperto, assolutamente. E qual è stato il suo primo lavoro? Come l'ha trovato? Primo lavoretto che ho fatto, siccome giocavo bene a tennis, ero un istruttore di tennis d'estate a tempo perso, e l'ho trovato perché qualcuno mi ha chiesto: mi dai delle lezioni di tennis, e quindi l'ho fatta. E poi da allora cos'è cambiato? Ah, da allora mille cose, a parte che erano forse più di 30 anni fa, e quindi poi ho fatto tante altre cose, poi mi sono appassionato di tecnologia e ho iniziato a fare, diciamo, prima il programmatore, poi mi piaceva l'evoluzione della tecnologia, appunto, e quindi ho iniziato a entrare in ambito sales, esatto, in questo momento. Senta, ma adesso un'ultima cosa, adesso Facebook vi fa concorrenza in qualche modo, permetterà alle aziende di pubblicare gli annunci, raccogliere candidature attraverso le proprie pagine, insomma il lavoro si troverà in bacheca. In diretta concorrenza con voi. Vi fa paura Facebook? Noi siamo sempre attenti a che cosa fanno le altre aziende in generale, e crediamo che LinkedIn sia sempre la piattaforma dei professionisti che cercano lavoro e delle aziende che lo offrono. Non mi ha detto se vi fa paura Facebook. Ma è una piattaforma per noi completamente diversa, con uno scopo diverso. Però adesso vogliono fare la stessa cosa. Ma diciamo che è già successo diverse altre volte, abbiamo sempre osservato e avete vinto che la nostra direzione è quella giusta. Poi, e poi, chissà. Ecco, Jacopo da Cecina scrive una cosa divertente, un proverbio delle sue parti, e dice: dalle mie parti si dice vale di più una nomea di una contea. Ma è interessante, carino Mario. Senti, sì, secondo te, e come ha detto Albergoni, si tende a sottovalutare le conseguenze che il nostro io digitale ha sulla nostra esistenza quotidiana? Purtroppo è così. Purtroppo, purtroppo, fortuna, anche perché se no si campa più. Ho capito, però se tu pubblichi appunto poi sul tuo profilo Facebook o addirittura sul tuo profilo LinkedIn nelle foto che ne so che sono proprio non professionali, certo, in questo caso, poi non trovi il lavoro, cioè, bisogna stare attenti, cioè, le conseguenze sono immediate e eterne, sì, cioè, dura tutto. Io dico sempre, state aprendo un profilo Twitter, pensateci 10 volte prima, aprite una pagina Facebook, vi hanno spiegato come si usa, aprite un profilo LinkedIn, che cosa ci mettete dentro? Cioè, è una attività che diventa professionale. Senti, tu Pietrangelo hai un alter ego digitale, quanto ti assomiglia? Mi assomiglia nel senso che lì metto i miei lavori giornalistici, i miei pezzi, la mia attività, e quindi mi assomiglia perché è quello perché che se faccio. C'è un rapporto diretto, non c'è di più. No, di più no, no. Di più no. Però posso proseguire su quello che diceva Mario. Dovremmo ricordare che tutto è nato dall'industria militare. Certo. È un dettaglio che bisogna ricordarsi sempre, cioè quello che a noi sembra un gioco, Facebook, Twitter, non il social, l'altro non è che è stato escogitato dalle strutture militari proprio per un'attività di controllo. Certo, ma quindi avere tanti follower conta davvero oppure no? Sì, conta perché quello è un pubblico, quindi noi, cioè almeno io curo personalmente tutti i miei social, da Twitter a Facebook, non c'è nessuno che lo fa per me e ci mancherebbe anche. Cerco sempre di avere un rapporto diretto con i miei followers, che sono lettori, e di averli di qualità anche, che è molto importante, una community vera e propria. Ma in generale credo dipenda dagli ambiti, ci sono profili che hanno tantissimi follower, ma sono legati per esempio alla possibilità di mostrare più o meno adipe, e quindi le signorine in quel caso insomma chi segue noi in effetti deve avere una grande dipende dagli ambiti. I grandi successi popolari per esempio non hanno mai un esito nei social, mai, tutto ciò che è totalmente popolare poi ha una zero visibilità nei social. Sì, è diverso, no? Soprattutto su Twitter, in questo caso Twitter è un po' più, diciamo, elitario tra virgolette per queste cose almeno. Senti, ma Renzi si gioca la sua reputazione con questo referendum anche sui social? Sì, perché comunque lui ha puntato molto sulla strategia social col referendum. Io consiglio sempre di fare le due cose, cioè territorio, stringere mani, fare comitati, vedere gente e poi anche i social, perché in Italia non corrispondono le due cose e come abbiamo visto neanche negli Stati Uniti. Infatti. E vabbè, per chiudere forse ha ragione l'immortale Red Butler di Via col Vento. Un altro fallo e la mia reputazione è rovinata per sempre. Chi ha coraggio fa anche a meno della reputazione. Ah, dite delle cose scandalose. .800 24 0024, numero verde 349-238-6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Suzuki Baleno Hybrid, il modo più semplice di guidare un'auto ibrida. Mix 24. Allora Pietrangelo, stamattina la metropolitana, eccolo, com'era? Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Pietrangelo, qui sono reazioni. Ma oggi erano tutti cavalieri dei libri antichi, usciti fuori dalle loro pagine, se ne andavano oltre gli ingressi dei vagoni della metropolitana. E poi sapete, c'erano gli uccelli che si erano appoggiati sui corrimano come se fossero dei pentagrammi. Insomma, è venuta fuori questa canzone, ha chiamato il borghese gentiluomo volendola, dicendo con un messaggio: è poesia o è prosa la giornata? Poesia o prosa? Le borse aprono bene, quindi insomma un po' di prosa c'è. Tutto benissimo. Vai, il disastro di Trump non c'è stato. Che meraviglia, gli Eagles. Prima era comunque Leonard Cohen, era bello, anche se io facevo un po' il dissacratore con Pietrangelo dietro le quinte. E Giovanni, andiamo, ma il muro, parliamo di questo muro, il muro che sembra pensato adesso. Il muro, il Messico. Allora, i democratici, ma questo a tutte le latitudini, devo dire, godono del bonus oblio in una maniera incredibile. Il muro c'è già, lo abbiamo raccontato anche qui a Mix 24, ma non ieri, mesi fa. Il muro fu, quel muro col Messico è dal 1994 che è in costruzione. Infatti. C'è stato poi anche un provvedimento successivo del 2006. C'è l'impronta digitale di Bill Clinton e anche della moglie Hillary successivamente. È democratico. In America, devo dire, evidentemente sono dimenticati, godono di questa cosa. È il progresso inarrestabile, la felicità realizzata in terra. Ovviamente i fatti non stanno così, ma pare che non contino niente per loro. Il muro l'hanno costruito e sviluppato i democratici. Grazie. Bene, questo è chiaro. Salamino! Destra in destrutturazione. I liberal di tutto il mondo piangono per la vittoria di Donald Trump, ma i destri, i centrodestri d'Italia non riescono a ridere. È appunto la destra in destrutturazione. Massimo Bitonci, sindaco leghista di Padova, cade per le dimissioni dei consiglieri di Forza Italia. Stiamo parlando di Padova, città non certo disastrata. Luigi Brugnaro, sindaco forzista di Venezia, politicamente forgiato da Renato Brunetta, volta le spalle al proprio mentore e dichiara il sì al prossimo referendum. Il fine settimana del centrodestra in Italia è stato tutto di danze e controdanze. Francesco Verderami ha intervista sul Corriere Silvio Berlusconi e tutti il titolare del marchio moderato si dichiara centrista. Centrista. Giammai di destra. Anzi, democristiano. Finalmente. Lo è sempre stato. Ma non è... No, era anche socialista, mi pare, il cavaliere. Era temo socialista. Salvini invece a Firenze inaugura la stagione blu, si dice così, no? È la stagione blu. Ma non erano verni? No, è blu adesso, perché i militanti issano i cartelli simil Trump con la scritta Salvini. Simil Trump è rosso. No, era blu. Guarda, no, sarò daltonico, però è blu. No, ma vabbè. Mamma mia. Guardalo sul computer. Però è che i repubblicani sono rossi. Vabbè, ma lui non è repubblicano, è Trump, dai. Accurziamo, insomma. Allora, ora sono diventati supporter tutti quanti sovranisti, va da sé, con tanto di ben servita a Berlusconi nel bel mezzo di una campagna elettorale referendaria che nelle ultime tre settimane forse sancisce che cosa? Le ultime tre settimane del governo Renzi. Il dado è quasi tratto. Insomma, Giovanni, il ragionamento è questo. Se vince il no, il cavaliere si offre quale salvatore della patria, salvando il governo di Matteuccio suo e distrugge la destra. Se vince il sì, invece, Matteo fa un partito tutto suo, destruttura il Partito Democratico, salva Silvuccio suo e distrugge la destra. Insomma, il dado va in brodo e il pesce è perfetto. dà ancora una bolla, Mario? Ma certamente, continuiamo con gli Eagles e l'America. Comunque a me sta musica piace. Vai. Allora, il bonus oblio non vale solo ovviamente per i Clinton, vale anche per Obama. Ora, insomma, è lui il grande sconfitto di questa tornata elettorale delle presidenziali e la sua eredità è finita, ahimè, per lui nella polvere. Ora, io cerco di dare due o tre numeri per capire veramente la debacle, siccome non si leggono da nessuna parte. Sì. Allora, nel primo mandato di Obama i democratici avevano 60 senatori, ora ne hanno 48. Avevano 233 parlamentari alla Camera, oggi ne hanno 192. Avevano 29 governatori negli stati federali, oggi ne hanno 15. Nel 2017, come fa notare la National Review Online, venerata istituzione della stampa americana, bene, i repubblicani possono arrivare al record di 34 stati sotto il loro controllo. Non succedeva dal lontano 1922, presidenza di Warren Harding, che, guarda caso, fu anche uno dei primi a usare lo slogan che poi è stato usato da Trump, America First. Strana la storia. Hai visto? Ma strana, insomma, molto strana, interessante. Strana. Comunque, noi tra poco racconteremo la storia di Madre Teresa di Calcutta, la missionaria albanese che ha dedicato una vita ai poveri, agli ultimi, ai malati di lebbra, di AIDS, fondatrice della Congregazione delle Missionarie della Carità. Nel 79 vince il premio Nobel per la pace e il 4 settembre Madre Teresa è stata proclamata santa da Papa Francesco. Per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci dedica oggi? Oggi una canzone a chi coltiva ogni giorno, anche il lunedì, l'illusione della partenza. Anna Oxa, Quando nasce un amore. Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore. Quando nasce un amore, un amore, è un'emozione nella gola. Da quando nasce a quando vola, che cosa c'è di più celeste di un cielo che ha vinto mille tempeste? Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Vuoi sviluppare i tuoi progetti in cloud? Con Cloud VPS di Aruba, powered by Intel, ti bastano pochi click, 4 tagli di VPS con storage SSD e la potenza dei processori Intel Xeon di ultima generazione da meno di 5 euro al mese. Aruba e Intel, il cloud semplice e conveniente. Vai su cloud.it.